Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Vi ho già parlato di questo scrittore perché veramente la prima volta che l'ho letto mi ha colpito molto. Secondo me è uno scrittore di grande sensibilità, che ha la capacità di raccontare con acume, con intelligenza e anche con delicatezza i vari sentimenti dell'animo umano, sia degli uomini che delle donne. Lui si chiama Andrés Neumann, è argentino, ormai vive da tantissimi anni in Spagna. Il libro di cui vi parlo oggi si intitola Le cose che non facciamo, pubblicato da Surra. È una raccolta di racconti. Tempo fa vi avevo parlato, ed era anche andata in onda l'intervista sul cacciatore di libri, di un altro suo libro, Parlare da soli, pubblicato da Ponte alle Grazie, e vi consiglio naturalmente anche quello. Andrés, in questa raccolta di racconti tornano molti dei tuoi temi. Non c'è un filo logico, diciamo, che lega tutti i vari racconti, però è come se ci fosse lo stesso sentimento sotto, perché parli spesso di malattia, di morte, della figura dei genitori, delle relazioni umane, di come le relazioni umane possono improvvisamente cambiare senza che noi ce ne accorgiamo. Questo ormai, come dire, il tuo marchio di fabbrica e il tuo stile? Sì, in certo modo sì. Bueno, estoy encantado de volver a estar contigo, Alessandra. Gracias. Me siento come in casa, aquí. Sì, in un certo senso sì. Sono molto contento di essere di nuovo qui con te, Alessandra. Ormai mi sembra di essere a casa qui e adoro queste interviste bilingue. Credo che i racconti, soprattutto quando sono racconti brevi, inventino delle microscopiche tragicommedie. Sono piccole capsule che racchiudono mondi. E quello che succede con il tempo e lo spazio all'interno di un racconto breve è molto interessante. È come se in un metro quadrato e in un istante si assista a dei conflitti che nei romanzi possono svilupparsi nel corso di 100 o 200 pagine. Per me i racconti sono una parte della letteratura altrettanto importante dei romanzi e della poesia. E concretamente, credo che i racconti brevi rappresentino un territorio di confine molto interessante tra la poesia e la narrativa. Da una parte si costruiscono personaggi, si racconta una storia, ma dall'altra parte succedono cose strane, anomale, con il linguaggio, che derivano proprio dall'estrema brevità del testo. Quindi, in qualche modo, ho l'illusione di poter giocare a essere narratore e poeta allo stesso tempo. Quando scrivo un racconto molto corto, che i conflitti sono narrativi, ma le soluzioni formali sono invece poetiche. Come nel caso del racconto Una riga sulla sabbia, in cui un intero matrimonio si decide, si definisce e si discute in base a una piccola riga che lei traccia sulla sabbia con la sua racchetta, e quel piccolo gesto fisicamente effimero, poiché è fatto sulla sabbia, è sufficiente per scatenare tutta una serie di questioni relative a un conflitto di coppia. E queste piccole soluzioni poetiche dei racconti mi sembrano molto godibili come lettore e come scrittore. Y estas pequeñas soluciones poéticas de los cuentos a mí me resultan muy placenteras como lector y como escritor. A proposito del racconto che citavi, no? Questa donna che fissa una linea sulla sabbia nei confronti del marito, si percepisce proprio che fra loro due c'è un conflitto, ma in realtà è come se lui non avesse capito nulla, è come se lei gli stesse dicendo con quella linea: guarda che tu di me non hai capito mille cose. È così o è una mia interpretazione? Al principio es eso lo que sucede. Creo que poco a poco esa línea. All'inizio quello che succede è proprio questo. Poi credo che poco a poco quella piccola riga, da essere un apparente capriccio, si carichi di un valore simbolico, finché lui finisce per capire che quella riga non è un gioco, ma piuttosto una sintesi dell'invasione del territorio, del non rispettare lo spazio dell'altro. Alla fin fine di questo si tratta, no? Virginia Woolf parlava di una stanza tutta per sé, non solo gli scrittori. Ogni individuo ha bisogno di una stanza per sé, anche all'interno di una coppia o di una relazione. Il mio tentativo è stato quello di capire entrambi i personaggi del racconto, narrare da entrambe le parti ed essere anche capace a un certo punto di far sì che ognuno di noi cerchi di capire che cosa c'è dall'altra parte della riga, rispettare il territorio dell'altro, ma anche capire che cosa c'è di là della frontiera. E questo può avere anche una lettura politica. Fino a che punto le frontiere sono un problema ma sono anche una sfida e una ricchezza. Attraversare una frontiera a volte è la cosa migliore che si possa fare, ma attraversare una frontiera è una cosa, invadere lo spazio altrui è un'altra. Però cruzare la frontiera è una cosa e invadire lo spazio ajeno è un'altra. Tra i racconti che ho letto in questa raccolta, le cose che non facciamo, ce ne sono un paio che ho messo così insieme, li ho legati insieme. Quello in cui racconti di quest'uomo, di questo ragazzo che a 20 anni ricorda le scarpe, i piedi del papà. Si capisce che è stato malato, è stato in ospedale e poi è morto. Poi questo ragazzo calza le scarpe di suo padre. E poi c'è invece un altro racconto più lungo in cui un uomo sembra parlare col suo psicoterapeuta. Sì. E non si capisce inizialmente chi dei due è lo psicoterapeuta e chi fa finta di essere paziente o no. Anche in questo caso ha perso i genitori, uno dei due, e continua a vivere come se loro esistessero. Torna spesso questo tema della perdita dei genitori, come mai? Bueno, en lo personal, como sabes, Alessandra, perdí a mi madre cuando era muy joven. Beh, da un punto di vista personale, come sai, Alessandra, ho perso mia madre quando ero molto giovane. Ma al di là di questa circostanza personale, che ovviamente mi ha dato modo di riflettere sulla questione della perdita e anche sul ruolo delle persone che si prendono cura dei propri cari malati, al di là di questa esperienza biografica, mi interessa molto l'idea della permanenza del ricordo, della presenza quotidiana del ricordo, perché mi sembra che questo fenomeno sia di per sé molto letterario. È una voce invisibile, una specie di stream of consciousness, di discorso della coscienza. Si potrebbe dire che non c'è nulla di più narrativo della perdita, perché la perdita è la trasformazione di un individuo reale in una voce, in un punto di vista che uno assimila. E diciamo che quando qualcuno perde uno dei suoi cari, si trasforma in un narratore dell'individuo perduto, che ha bisogno di prendersi cura di quella voce, di coltivarla, esercitarla. Quindi credo che la nostra vita non sia altro che una scatola piena di voci, che pian piano andiamo collezionando e abbiamo la responsabilità musicale e poetica di conservarle. Una cosa che mi ha sempre colpito molto è la facilità con cui si perdono le voci delle persone care che non ci sono più. Il fatto che la memoria dei nostri cari sia molto più visuale che uditiva. Credo che scrivere sia proprio un modo di protestare contro tutto questo, un tentativo di dare valore alla parte musicale e uditiva della persona scomparsa, e questo ha molto a che vedere con la radio. Siamo una radio di fantasmi, ecco cosa siamo. Gente che sta vivendo un lutto, ma che sta anche cercando di avere una specie di programma radiofonico con i propri cari defunti. Questa mi è sempre sembrata una delle funzioni della fiction, mettere in scena la presenza degli assenti. Y esto siempre me ha parecido una de las funciones de la ficción, escenificar la presencia de los ausentes. Ho segnato alcune parti che mi hanno particolarmente colpita, come faccio sempre con i libri. Infatti, se si potessero vedere i libri alla radio, vedreste i miei libri sottolineati a matita con vari post-it. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, Le cose che non facciamo, il finale è meraviglioso secondo me, perché a un certo punto tu scrivi: mi piacciono tutti i propositi, dichiarati o segreti, che disattendiamo insieme. È questo che preferisco della vita a due, la meraviglia aperta sull'altrove, le cose che non facciamo. Questo racchiude il senso della bellezza per te del rapporto di coppia? Claro, a me mi interessa molto la omissione, la quietud e un poco tratar de trasmitir il lato opuesto della epica amorosa. Certo, mi interessa molto l'omissione, la quiete, anche cercare di trasmettere quello che è l'opposto dell'epica amorosa. Viviamo in una società che è capitalista, non solo in un senso economico e materiale, ma anche la nostra logica è produttiva. Quindi quando pensiamo a una storia d'amore, pretendiamo che i due amanti stiano facendo cose tutto il tempo, sempre facendo, producendo avventura. E non ci rendiamo conto che è un modo capitalista di interpretare il romanticismo. Avere un'avventura è fare qualcosa, incessantemente. Mentre in realtà mi sembra che ci sia qualcosa di poetico nel non voler fare qualcosa. Ovviamente questo non prendetelo alla lettera, ma intendo dire che in realtà rifiutarsi di fare qualcosa, fermare il tempo, possa essere un atto di una profondità superiore. Uno sa che sta bene con qualcuno quando può stare in silenzio. Vuol dire che l'amore è la capacità di non fare nulla, ma con la giusta compagnia, o no? E mi sembrava che potesse essere una sfida interessante provare a raccontare una storia d'amore in cui due amanti non fanno nulla, perché decidono di non fare nulla. Ma volevo anche dire che mi piace molto che tu sottolinei i libri. È una cosa di cui è interessante parlare, perché ci sono due teorie sui libri. C'è chi pensa che la coppia del libro debba rimanere vergine, il libro deve arrivare vergine al matrimonio, diciamo. E c'è poi la teoria promiscua, secondo la quale un libro, quanto più è stato toccato, più è felice. Io che sono un pervertito, preferisco la seconda teoria, ovviamente. E mi piace la gente che lascia nei libri la propria traccia fisica. Proprio per questo non amo prestare i libri. Preferisco comprarne un'altra copia e regalarla, perché c'è qualcosa di possessivo, non nell'oggetto, ma negli appunti, nelle frasi sottolineate. Diciamo che un libro nasce fabbricato industrialmente e quando finisce tra le mani di qualcuno che vi lascia una traccia, finisce per essere parte della famiglia. Quindi, ecco, mi piace moltissimo vedere le tue tracce sui libri. Mi piace moltissimo vedere questo. Pensa che quando, diciamo, non guadagnavo tanti soldi, ecco, quindi non avevo molti soldi da spendere, compravo i libri usati, ma era un fascino particolare perché trovavo le sottolineature degli altri e giocavo con la mia immaginazione a pensare chissà perché questa persona ha sottolineato questa frase o quest'altra. Hai un cuento in este libro con una sensazione molto parecida. C'è un racconto in questo libro che parla di una sensazione molto simile a questa, perché ho sempre pensato che vedere le tracce della lettura nei libri degli altri è una cosa intima quanto vedere la biancheria intima degli sconosciuti. L'ultimo dei racconti del libro, credo che sia l'ultimo, Teoria della stesura, è la storia di qualcuno che si dedica a osservare la biancheria intima dei suoi vicini, che non conosce, e cerca di immaginare come sia la loro vita in base alle macchie sulla biancheria, i colori, le forme, cercando di dedurre tutti i loro corpi a partire dalla piccola traccia che è la roba stesa. E ho sempre pensato che ci sono due cose che definiscono la nostra vita segreta. Una è, appunto, la biancheria intima. L'altra sono le nostre sottolineature e i nostri appunti nei libri. E per questo sono le cose più interessanti da spiare, ovviamente. E per questo è lo más interesante de espiar, por supuesto. Capite perché amo questo scrittore, amo Andrés Neumann dal punto di vista letterario, perché secondo me riesce sempre ad avere uno sguardo profondo, anche se dolente, sulla realtà e quindi riesce a parlare di cose in modo molto molto bello, secondo me. Alla fine di questa raccolta di racconti tu fai, diciamo, detti un po' delle regole per chi scrive i racconti. Sappiamo che purtroppo i racconti non sono molto amati, almeno in Italia non si leggono tantissimo. Io sono un'eccezione perché li amo particolarmente. E come lettrice di racconti ti dico che la tua ultima regola di queste 12 regole divise per 4 la condivido in pieno. Tu scrivi: ci sono racconti che meriterebbero di finire con un punto e virgola. Questo indica naturalmente che a volte i racconti sono sospesi, poi c'è tutto un seguire che poi il lettore immagina. Tanto è vero che non so se questa sia una regola, ma io personalmente quando finisco di leggere i racconti, non solo i tuoi, ma i racconti in genere, ho bisogno di silenzio. Assolutamente. Più di quando si finisce un romanzo, perché è come qualcosa che ti ha colpito in modo immediato e c'è bisogno di silenzio per pensare. Sì, uno necessita digerir il silenzio posterior alla palabra. Assolutamente sì. Si ha bisogno di digerire il silenzio posteriore alla parola. Il racconto, come ogni testo breve, è uguale per le poesie. Per esempio, si alimenta molto di ellissi e l'ellissi ha bisogno di quel momento di assimilazione un po' stupita. A me piace molto quell'effetto per cui c'è un gesto fisico incredibile, perché ci mette in contatto con la nostra parte più intuitiva. Il momento in cui, quando abbiamo letto qualcosa che ci commuove, alziamo la testa, come se avessimo un'antenna, come se tutti fossimo piccoli ricevitori radio e avessimo bisogno di sintonizzarci. Solleviamo la testa per ascoltare come i sensi sono rimasti a galleggiare sopra la nostra testa. Quando uno riesce a provare quella sensazione, credo che il testo letterario abbia svolto la sua funzione più affascinante. Quando uno consigue questa sensazione, credo che il testo letterario alcanza su funzione più hermosa. Grazie allora ad Andrés Neumann, ora in libreria con Le cose che non facciamo, pubblicato da Sur. Vi ricordo che è una raccolta di racconti tradotta da Silvia Sichel. Io ve l'ho detto, ve lo consiglio con il cuore Andrés Neumann, poi se lo consiglia anche Roberto Bolagno, vedete un po' a chi volete credere. Grazie Andrés. Grazie tantissime, per me è un piacere grandissimo. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Prometto che in questa intervista farò delle domande cattive, lo so perché gli ascoltatori già inizieranno, come dire, ad avere dei dubbi, a fare piccole polemiche, perché l'autore di cui parlo oggi è un giornalista e come sempre quando si intervista un giornalista tutti dicono vi siete messi d'accordo, siete amici. Giuro, io ed Enrico Franceschini non ci siamo mai visti prima d'ora e la prima volta che lo incontro, spero che lui possa confermare. Non solo visti, neanche sentiti. Neanche sentiti, quindi è la prima volta che ci vediamo, quindi ho scelto il suo libro puramente per il romanzo che ha scritto. Il romanzo che ha scritto si intitola Scoop ed è pubblicato da Feltrinelli. Enrico Franceschini è una firma molto nota di Repubblica. Tu sei stato corrispondente da varie parti del mondo, da New York, da Washington, Gerusalemme, adesso Mosca, adesso sei a Londra, quindi insomma è un nome che si conosce molto, la faccia un po' di meno, infatti io confermo che è la prima volta appunto che ti vedo. Dal titolo si capisce subito, Scoop, che questo è un romanzo che ha a che fare con il giornalismo. Infatti il protagonista è un giovane giornalista, 25 anni, Andrea Muratori, che inizialmente lavora nella redazione sportiva, poi quasi per caso viene mandato per un equivoco viene inviato dal direttore nel Centro America, in un posto dove c'è una rivolta, non si capisce bene, una guerra, eccetera. Come prende questa notizia il tuo protagonista? Il mio protagonista la prende con paura, sgomento e eccitazione, perché pensa che potrebbe essere la grande occasione per lui di passare da scrivere articoletti di sport piccolini a finire in prima pagina e diventare un grande inviato speciale, un corrispondente di guerra, e anche con la paura invece di che sia venuto il giorno in cui dimostra di non essere tragicamente all'altezza del compito, e quindi essendo una vicenda ispirata a qualcosa che è successo anche a me a quell'età, autobiografia qui abbiamo, perché anch'io finii in Centro America a 26 anni quando ero un giovane freelance che viveva a New York allora, e quindi è una storia in buona parte ispirata dall'ingenuità che avevo io allora. Ecco, l'ingenuità che ha Andrea Muratori è anche tenera in molti aspetti, soprattutto all'inizio, perché lui chiaramente pensa, come tutti noi quando eravamo giovani volevamo fare i giornalisti, che fare l'inviato di guerra era una cosa pericolosa, rischiosa, avventurosa. Poi arriva in questo posto e trova i suoi colleghi, come dire, veterani del giornalista, insomma, che da anni seguivano le guerre e le rivolte, in un hotel di lusso a bordo piscina. È una pagina molto divertente, tra l'altro, del tuo romanzo. E rimane un po' spiazzato. Anche tu avevi questa ingenuità all'epoca? Sì, ce l'avevo anch'io, e non solo le scene che racconta il libro sono le scene che ricordo anch'io, di alzarmi la mattina e vedere un bellissimo signore brizzolato, tutto vestito di bianco, che faceva ginnastica con movimenti flessuosi ed artistici, e con tutti i domestici dell'albergo che lo guardavano a bocca aperta. Detto questo, è un giornalismo ambientato agli anni della mia gioventù, primi anni 80, la vicenda è l'anno, per la precisione, è il 1982. Molte cose sono cambiate, sia perché i giornalisti vanno meno in alberghi di lusso, sia perché internet e il web rendono più difficile, se non impossibile, fingere di essere in prima linea se invece sei a bordo piscina. Insomma, diciamo che tutte quelle cialtronate che tu anche descrivi nel romanzo sono più difficili ora. Ma c'è stato qualche collega che insomma si è un po' indispettito, magari appunto che era inviato di guerra all'epoca, che ha detto senti Franceschini, però questo libro tu non dovevi scriverlo? Non è ancora successo, ma io mi auguro che non succeda, perché anche se c'è ovviamente un po' di presa in giro nel raccontare i tic e le abitudini di questi grandi inviati di allora, io scrivendolo, l'ho scritto con un enorme affetto, con un'enorme ammirazione e con un'enorme affascinazione, sentendo il fascino di questi personaggi, come succede al protagonista che passa prima dall'illusione di diventare come loro, poi dal disgusto di non volere diventare come loro, e poi un po' alla volta la commedia diventa un dramma. A un certo punto nel dramma vede che poi non sono così sempre cialtroni e che non è così tutta finta e tutta fuffa. Insomma, sanno essere dei veri giornalisti professionisti quando serve. C'è del coraggio vero, perché la maggior parte della gente non ha mai sentito da vicino sparare un colpo di pistola e loro non solo li sentono, ma è vero che rischiano la vita, forse non tutti i giorni, forse vanno anche al bordo piscina, ma è allora lui un po' alla volta finisce per essere irretito da questo modo e per desiderare di diventare uno di loro, perché il libro è anche il classico rito di passaggio dalla giovinezza all'età adulta. Sì, una specie di romanzo di formazione, esatto. Possiamo dire, perché anche i giornalisti più grandi cercano di istruirlo, sì, no? Lui arriva che non fuma, non beve, non va a donne, e loro in tutti e tre i reparti, i dipartimenti, gli danno un po' di lezioni. Beh, questa è un'immagine anche un po', diciamo, tradizionale, un po' quasi vecchia romantica del giornalista che fuma, che beve, o esiste ancora? Lo chiedo a te, in fondo anch'io sono una giornalista, ma il tuo contesto chiaramente è diverso da quello che vivo io. Beh, intanto è cambiato il mondo, nessuno fuma più o pochi fumano e si beve di meno, si sta più attenti alla salute, ce ne sono ancora quelli che fanno ginnastica come quel signore vestito di bianco che io vidi, ma magari fanno jogging nella palestra dell'hotel invece che i suoi movimenti di tai chi. Quindi è cambiato tanto anche da questo punto di vista, ma io mi è capitato nella mia carriera di sentire alcuni di questi di dire a giornalisti della mia età o anche più grandi di dire, mi ricordo uno in particolare, due persone famosissime tutte e due di cui non farò i nomi, ma di dire: ma tu non fumi, non bevi, che giornalista sei? Sì, però non mi fai nomi. Io devo fare qualche domanda cattiva in questa, intervista. Perché dicevo, ha promesso domande cattive sì, e ancora non sono arrivate. Non mi vengono domande cattive, però insomma ho dichiarato pubblicamente che non ci conosciamo, no, quindi anche se sei giornalista, spero che questo possa essere, come dire, una patente di veridicità. Sì. Su quello che dico. Una cosa che mi ha divertito molto in questo libro, a un certo punto, quando appunto il direttore di questo giornale decide di inviare Andrea Muratori in Centro America, dice: dunque, il direttore ha deciso di mandarti in quel paese dove c'è una specie di rivolta o rivoluzione, non ha importanza il nome, tanto se non lo so io non lo sanno di sicuro neanche i lettori, e puoi raccontargli chi si chiama come ti pare. Insomma, praticamente gli dicono: fai quello che vuoi, esatto. Scrivi quello che vuoi, inventa quello che vuoi, basta che ci riempi la pagina. Basta che ci riempi la pagina e basta che ci metti delle cose che fanno venire voglia di leggere. Sai, quando tu dici neanche i lettori lo sanno, ogni tanto anche fra inviati in situazioni drammatiche si dice: mi immagino che adesso noi facciamo questo sottile distinguo fra la politica di una fazione contro quell'altra. Nei bar domani, nei paesi dei bar, la gente si accapiglierà per dire: no, lo voglio leggere io, se il fronte di liberazione del Guaranà è noi più di sinistra. Siamo un pochino autoreferenziali, no? Cerchiamo di guardare soprattutto cosa ha fatto il nostro concorrente, sì, il nostro collega, certo. Senza sapere che i lettori probabilmente neanche sono interessati. Siamo autoreferenziali, però c'è anche molta capacità di prendersi in giro, di non prendersi sul serio. Chi si prende sul serio viene poi eternamente preso in giro dai colleghi, e quindi... E allora adesso Enrico Franceschini non si prenderà sul serio, gli farò una domanda cattiva e mi risponderà con sincerità. Oh. Qual è la cialtronata che tu hai fatto nella tua carriera più che trentennale a Repubblica, appunto come corrispondente da varie parti del mondo? Ce la devi confessare. Beh, di cialtronate ne ho fatte sicuramente, qui che senza peccato scavi la prima pietra, ne ho fatte sicuramente, ho esagerato, abbellito. Posso dire, non proprio una cialtronata, ma posso dire, vedi, devio, scappo, posso dire che in vita mia io di scoop ne ho fatti due. Perché gli scoop sono una cosa rara, lo scoop del titolo del romanzo, e non succede spesso. Uno è raccontato nel romanzo, quello che succede al protagonista è essere l'unico al mondo ad assistere a un golpe, e poi finisce che l'articolo non va proprio come lui sperava, non raccontiamo di più. L'altro è stato a Mosca, durante il golpe contro Boris Yeltsin per far cadere il comunismo, per riportare il comunismo, anzi, e mentre bombardavano il palazzo in cui i ribelli erano asserragliati, un mio collega ci andò dentro, un collega del Corriere della Sera, andò dentro per primo, e io ero molto molto incerto, ho avuto un momento proprio sliding doors della vita, lo seguo o non lo seguo, e alla fine l'ho seguito e tutti il giorno dopo mi hanno detto un po' di cialtronaggi, dicendo questo coraggioso, bravo, così all'epoca dissi, beh sì, te la sei tirata, sono una persona abbastanza coraggiosa, io sono intrepido, non ho paura, le pallottole non mi fanno un baffo. La verità è che io avevo molta paura, non delle pallottole, delle cannonate, dei carri armati che facevano dei buchi grandi come una casa in sto palazzo, ma ancora di più avevo paura di un'altra cosa, di Eugenio Scalfari. Il mio direttorissimo. Il mio direttore, che se avesse saputo che il mio collega del Corriere della Sera andava dentro, intervistava i leader della rivolta. E tu no? E io che ero lì, no, altro che cannonate. E quindi non era coraggio, cioè era paura che mi indusse ad andare dentro, paura del mio direttore, peraltro amatissimo. Vabbè, diciamo che è una mezza cialtronata, non è tutto sommato una confessione di quelle grandi. Grazie allora ad Enrico Franceschini, autore di Scoop pubblicato da Feltrinelli. L'ho detto, l'ho dichiarato all'inizio di questa intervista, lui è un giornalista noto, famosissimo di Repubblica, ma io non l'avevo mai incontrato prima, quindi giuro che questa è stata un'intervista da giornalista scrittore e non da giornalista collega. Grazie Enrico. Grazie a te. E anche per oggi è tutto, grazie in regia Paolo Corleoni. Come sempre vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it, oppure potete anche scaricare il podcast dalla nostra app. Basta registrarsi appunto gratuitamente all'app di Radio 24, andare nella sezione podcast, segnalare che interessa appunto il Cacciatore di Libri e cliccare su alert, così appena la puntata sarà disponibile potrete ascoltarla in qualsiasi momento. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.